Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Juncker su Francia e Italia, fate le riforme o ci saranno conseguenze spiacevoli, ancora tensione sul mercato greco, si inverte la curva dei rendimenti fra i titoli a tre anni e i decennali. 'Ndrangheta in Umbria, 60 arresti, imprenditori costretti a lasciare le aziende nelle mani dei mafiosi e interessi anche nel fotovoltaico. Inchiesta su Roma, il sindaco Marino consegna in procura alcuni documenti verso nuove norme contro la corruzione. Colpire i beni come con la criminalità organizzata, dice il ministro Orlando. A Ramallah, in Cisgiordania, un ministro palestinese muore durante scontri con l'esercito israeliano. Secondo alcune fonti sarebbe stato colpito al petto. Prigionieri morti per ipotermia, alimentati per via rettale, tenuti in piedi per 22 ore, privati del sonno. Il rapporto sulle torture della CIA ai presunti terroristi scuote l'America, si alza il rischio attentati. L'uomo più ricco di Russia compra l'asta alla medaglia del Nobel dello scopritore del DNA, la paga quasi 5 milioni e la restituirà. Un pari striminzito, ma la Juventus passa il turno in Champions, questa sera tocca la Roma contro il Manchester City. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre, se volete le potete commentare al 349-238-6666 via SMS durante la trasmissione o scrivendoci sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno per osservazioni, commenti o quello che volete, effettogiorno@radio24.it. Iniziamo dalle cronache europee perché ci sono dichiarazioni all'indomani, tra l'altro, di Eurogruppo ed Ecofin del Presidente della Commissione Europea Juncker che riguardano Francia e Italia. Ci colleghiamo col corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, Beda Romano. Beda, buongiorno. Che cosa ha detto Juncker? Buongiorno. Juncker ha colto l'occasione per fare due interviste nelle ultime ore. Una a Libération, il giornale francese, e la seconda intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, il giornale conservatore tedesco di Francoforte. In quest'ultima intervista Juncker ha ribadito quanto in realtà la Commissione ha già detto alla fine di novembre. La Commissione ha preferito in questa circostanza, quando ha dato un giudizio preliminare sulla finanziaria 2015 di molti paesi della zona euro, non prendere decisioni drastiche per quei paesi a rischio di violazione del patto di stabilità, tra questi paesi l'Italia e la Francia, e ha dato loro, a questi Stati membri, tempo fino a marzo per dimostrare alla Commissione europea e ai partner europei la loro volontà di risanare i conti pubblici e di modernizzare l'economia. In questa intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung Juncker torna su questo aspetto e spiega esplicitamente che naturalmente se entro marzo i paesi a rischio di violazione del patto non avranno fatto quanto promesso, potrebbero esserci conseguenze, tendenzialmente sanzioni, soprattutto per quanto riguarda la Francia. Il linguaggio è un po' duro probabilmente perché parla di conseguenze spiacevoli, ma il Presidente della Commissione non fa che ribadire quanto aveva già detto alla fine di novembre, e probabilmente il linguaggio è dovuto al fatto che stava parlando ad un giornale tedesco e bisognava in questa circostanza rassicurare soprattutto i tedeschi. Grazie Beda Romano per la cronaca e anche per l'analisi. E noi passiamo ad un'altra questione che naturalmente sta in questo momento animando l'Europa ed è la questione greca. Questa mattina è stata disinnescata dagli artificieri una bomba davanti ad una banca mentre gli uomini della Troika tornano ad Atene. Tutto questo dopo che ieri, come ben sapete, i mercati, soprattutto ad Atene, sono letteralmente crollati con un impatto su tutto il resto d'Europa. E questa mattina, sempre a proposito di mercati, c'è stata la famosa inversione della curva dei rendimenti tra i titoli di Stato a breve termine e i titoli a lungo, tra i titoli a tre anni e i titoli a dieci anni. Un'inversione che indica generalmente un rischio di default più accentuato. Ci colleghiamo con Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Vittorio, buongiorno. Buongiorno a voi. Qual è la situazione e cosa fa la Troika ad Atene? La Troika Polemica cerca di mettere finalmente, di trovare una via di uscita al salvataggio che dovrebbe terminare a fine mese. Quindi entro il 31 dicembre abbiamo avuto una proroga di un paio di mesi fino a febbraio, una proroga tecnica, ma entro questo periodo Atene deve trovare appunto l'accordo per chiudere la partita del primo salvataggio da 240 miliardi e trovare una formula nuova che potrebbe essere una linea di credito precauzionale che consenta ad Atene di andare sui mercati in maniera appunto autonoma. Tutto questo però è stato messo in discussione perché non si sono trovati i 2,5 miliardi che secondo la Troica mancherebbero all'appello, chiedendo al governo di aumentare di nuovo l'IVA e aumentare appunto ancora l'età pensionabile. Due elementi che il governo Samaras vede come estremamente impopolari in questo momento e che gli creerebbero problemi proprio in vista di una possibile, ormai quasi certa, incubo di nuove elezioni. Ecco perché tutti adesso sono concentrati su il piano di Tsipras, che potrebbe essere il nuovo leader in caso di elezioni anticipate, che cosa Syriza potrebbe chiedere alla Troica. Si parla di possibili riduzioni del debito, Tsipras vorrebbe un 70-80% di riduzione del debito pubblico greco, che è al 175% del PIL, ma questo aprirebbe un precedente gravissimo, perché per la prima volta verrebbero aiutati appunto un paese in una questione di debito sovrano. Tutto questo quindi apre una possibilità estrema che Tsipras decida di uscire dall'euro. Grazie a Vittorio D'Arold anche per questi aggiornamenti e per questa analisi. Noi passiamo alla cronaca italiana, che ci porta innanzitutto a questa grande operazione contro la 'ndrangheta avvenuta in Umbria. C'è anche l'Umbria tra le regioni sulle quali la 'ndrangheta ha messo le mani, mantenendo saldi collegamenti con le cosche calabresi di origine, infiltrandosi in particolare nel tessuto economico. E quanto è emerso dall'inchiesta Quarto Passo, che ha portato all'esecuzione di 61 ordinanze di misura cautelare. Per condizionare le attività imprenditoriali si faceva ricorso ad incendi ed intimidazioni, come emerge da questa intercettazione. Ma se tu non prenderlo il negozio? Perché? Per quale motivo? Perché se no chiudi, il secondo giorno chiudi. Più di 30 milioni di euro il valore dei beni sequestrati, il comandante del ROS dei Carabinieri, il generale Mario Parente. Anche questa indagine conferma intanto la capacità dell'andrangheta di replicare al di fuori della Calabria i propri modelli criminali, mantenendo appunto saldi collegamenti con le cosche di origine ed infiltrandosi nel tessuto economico e sociale locale. In alcuni casi gli imprenditori costretti a cedere le imprese e pur rimanendo formalmente intestatari venivano di fatto sostituiti nella gestione da affiliati al sodalizio. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo all'inchiesta su Roma Capitale. Oggi il sindaco si è presentato in procura. Si è presentato negli uffici della Procura poco dopo le 10 di questa mattina il sindaco di Roma, Ignazio Marino. Il primo cittadino ha avuto un breve incontro con il procuratore capo Giuseppe Pignatone, al quale avrebbe consegnato documenti che potrebbero essere utili nell'inchiesta su Mafia Capitale. A Palazzo di Giustizia oggi si concluderanno gli interrogatori di garanzia degli indagati finiti ai domiciliari. Domani invece il Tribunale del Riesame inizierà ad esaminare le istanze di scarcerazione presentate dagli arrestati, a partire da Massimo Carminati. Sul fronte delle indagini, gli inquirenti sono sempre al lavoro per ricostruire la fitta rete di rapporti che legava Mafia Capitale a politici e amministratori corrotti. Nelle perquisizioni è spuntato anche un nuovo libro nero con la contabilità del sodalizio criminale. Gli investigatori lo hanno trovato a casa di un collaboratore di Salvatore Buzzi, il braccio imprenditoriale dell'organizzazione che, stando ad alcune intercettazioni con le sue cooperative, avrebbe cercato di mettere le mani anche sul centro di accoglienza di Mineo in Sicilia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi naturalmente resta aperto il fronte politico, a partire da quello che riguarda le nuove norme sulla corruzione. Anche se non c'è l'ordine del giorno, è stato convocato per domani un consiglio dei ministri. Elisabetta Fiorito, buongiorno, è probabile che si parli di quello, no? Simone, domani mattina il Consiglio dei Ministri alle 8 per discutere quindi le nuove norme anticorruzione dopo lo scandalo. Si parla di un inasprimento delle pene da 4 a 6 anni, i corrotti pagheranno tutti, promette il Premier Matteo Renzi. E c'è anche quindi la proposta del Ministro della Giustizia Andrea Orlando di estendere gli strumenti utilizzati nell'ambito della criminalità mafiosa rispetto a una serie di proventi. La strada maestra è quindi quella di colpire i patrimoni. Inoltre l'innalzamento della pena minima per corruzione da 4 a 6 anni avrà conseguenze anche su quella patteggiata e anche sui termini di prescrizione, perché l'aumento delle pene minime faranno sì che con i patteggiamenti ci saranno comunque elementi di esecuzione della pena legati alla detenzione. Per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozzi, dobbiamo trasformare questo male romano in una nuova opportunità di lotta ancora più dura contro la corruzione e le sue cause. Per l'ex PM Giancarlo Caselli i passi di Renzi vanno nella direzione giusta, ma sarebbe auspicabile un decreto. Questa mattina anche l'intervento del leader della Lega Matteo Salvini, che chiede a Marino di togliere il disturbo e in dialetto dice perché non va bene, non è buono. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, gli aggiornamenti sulla morte del bambino nel Ragusano e soprattutto sull'inchiesta, sentiamo. Chiusa nella sua cella di isolamento, Veronica Panarello piange e aspetta. Aspetta la decisione del GIP sulla convalida del fermo per reati che pesano come un macigno e che le stanno facendo il deserto intorno. Prima sua madre e sua sorella, ora anche suo marito, dice di non voler sapere più nulla del destino di questa donna accusata di aver ucciso il figlio Loris con cinismo e crudeltà, scrivono i PM. È stata lei, si sfoga Davide, il padre del bimbo ammazzato con una fascetta di plastica per ragioni ancora tutte da capire. È il movente a mancare ancora nelle 25 pagine del decreto della procura che hanno spalancato le porte del carcere per la mamma di Santa Croce Camerina, pagine che invece ricostruiscono gli indizi gravi a suo carico, dalle telecamere alle testimonianze, e che tratteggiano il profilo di una giovane donna non solo fragile ma fin da bambina aggressiva, a quanto racconta direttamente la madre, la stessa che poi al telefono con l'altra figlia marca le bugie di Veronica, che diceva di non conoscere la strada del vecchio mulino dove è stato ritrovato il corpo del bimbo, ma ci veniva invece sempre con me, riportano le intercettazioni. Anche davanti a queste contestazioni lei, Veronica, non cede e continua a chiedere di cercare il vero assassino di Loris, ma nel frattempo, chiusa in cella, aspetta l'esame del DNA e aspetta di conoscere il suo futuro prossimo. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. All'estero adesso, il ministro palestinese Ziad Abu Ein, morto oggi nell'ospedale di Ramallah, dove è stato portato a seguito di incidenti con l'esercito israeliano durante una manifestazione appunto là. Secondo alcune indiscrezioni arrivate però da fonte palestinese, sarebbe stato colpito al petto da un elmetto da un soldato israeliano. Ci colleghiamo con Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Ugo, buongiorno. Un fatto che avviene tra l'altro nel momento nel quale la tensione politica nello stesso Israele è massima. Sì, certo, il ministro probabilmente è morto di malore, nel senso che è stato picchiato dai soldati israeliani e forse appunto ha avuto malore, forse è stato soffocato da un lacrimogeno. Quello che conta è che il ministro come altri palestinesi fossero lì vicino a Ramallah per protestare contro l'ennesimo allargamento degli insediamenti ebraici nei territori occupati palestinesi, e la questione continua a non essere risolta in una situazione, come dicevi tu, nella quale infatti Israele sta andando a butto anticipato sostanzialmente su questo, cioè se avere pace o non pace con i palestinesi, e nel frattempo un'intifada strisciante che ha già fatto più di una ventina di morti fra israeliani e palestinesi. La situazione diventa sempre più accesa e Bibi Netanyahu sembra un leader incapace di dare risposte, se non appunto risposte di forza. Grazie ad Ugo Tramballi per questo commento. Allora, almeno 3.419 migranti hanno perso la vita nel Mar Mediterraneo da gennaio, una traversata che diventa così, secondo quello che dice l'Agenzia ONU per i rifugiati, la strada più mortale del mondo. Adriana Fracchi ha intervistato Carlotta Sami, portavoce appunto dell'UNHCR, che è l'organismo appunto delle Nazioni Unite che si occupa di chi fugge da guerre, persecuzioni e fame. Sentiamo. In questo momento io mi trovo in Libano, è un paese in cui sono arrivati 1.145.000 rifugiati siriani negli ultimi 3 anni. Solo una minima parte di coloro che stanno fuggendo dalla Siria arriva purtroppo anche via mare in Europa. Solo in Italia 165.000 quest'anno, in Europa più di 200.000. La causa che li spinge la guerra, e questo è il motivo per cui stanno aumentando così tanto. Mare Nostrum ha fatto una grande opera di salvataggio, salvando più di 150.000 persone. Adesso che è terminato, noi temiamo che la priorità sul salvataggio in mare possa scendere. Questa invece deve rimanere alta costantemente, perché purtroppo le cause che spingono le persone a fuggire in questo momento non hanno una soluzione. Non c'è una soluzione alla guerra in Siria e neanche alla guerra in Iraq. E questo è il motivo per cui i numeri stanno continuando a salire negli ultimi 3 anni. Sono proprio i numeri di quella che noi definiamo la tragedia più grave della nostra epoca. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Juncker su Francia e Italia, fate le riforme o ci saranno conseguenze spiacevoli. 'Ndrangheta in Umbria, 60 arresti, imprenditori costretti a lasciare le aziende nelle mani dei mafiosi. Inchiesta su Roma, il sindaco Marino consegna in procura alcuni documenti. Ramallah in Cisgiordania, un ministro palestinese muore durante scontri con l'esercito israeliano. Passiamo al calcio adesso, perché insomma ieri la Juventus, un pari, lo abbiamo definito nei nostri titoli, striminzito, e già qualcuno su Twitter mi dice: ma che è striminzito contro i vice campioni d'Europa e campioni di Spagna? E poi stasera la Roma, Carlo Genta. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Beh, striminzito sì, perché non è stata una grande partita quella della Juventus. C'era un risultato da conquistare e la Juventus lo ha fatto senza rischiare nulla. È chiaro che qualcuno si aspettava una partita di maggiore intensità, diciamo così, della Juve, perché avrebbe avuto la possibilità, battendo l'Atletico Madrid con 2 gol di scarto, lo sappiamo, di arrivare primo in questo girone. Sappiamo anche quanto sia importante il primato nel girone, perché ti permette agli ottavi di evitare una grande potenza tra le altre prime del girone, che sia il Real Madrid, il Bayern Monaco, eccetera. Quindi di rischiare di meno. La Juventus ha scelto di rischiare. È andata così, di rischiare con il sorteggio del 15, che potrebbe regalare un avversario molto complicato. Non ha rischiato nulla, o ha rischiato pochissimo invece ieri sera contro l'Atletico Madrid, questo 0-0 che ha incoronato gli spagnoli, vice campione d'Europa e campione di Spagna primi nel girone, Juventus secondo, e vediamo la Roma. E la Roma? E la Roma stasera insomma ha il destino nelle sue mani. Se batte il Manchester City può anche disinteressarsi di quello che accade a Monaco di Baviera, dove c'è il Bayern già ampiamente promosso e qualificato, che riceve il CSKA di Mosca. Un doppio pareggio qualificherebbe la Roma, cioè pareggio a Monaco e pareggio all'Olimpico qualificherebbe la Roma. In caso di vittoria del Bayern, la Roma sarebbe qualificata solo con uno 0-0, altrimenti passerebbe il Manchester City in caso di pareggio con gol. Dunque bisogna fare conti di questo tipo. Sarebbe però bello se la Roma insomma si staccasse l'orecchio da quello che succede a Monaco di Baviera, che vorrebbe dire battere il Manchester City e infischiarsene bellamente dei risultati degli altri. Grazie Carlo Genta, che ritroviamo come sempre tutti convocati a partire dalle 14. Icona mondiale della lotta per il diritto all'istruzione delle ragazze, ormai lo sapete, Malala Yousafzai riceverà oggi a Oslo il premio Nobel per la pace assieme all'indiano Kailash Satyarthi, attivista contro la schiavitù dei bambini. Nel pomeriggio dunque la cerimonia in una giornata speciale, quella mondiale dei diritti umani. Di un Nobel intanto si parla da giorni per tutt'altra vicenda, un Nobel assegnato più di 40 anni fa. Sentiamo. Soldi, tanti soldi da una parte, competenza scientifica ed una clamorosa gaffa a rovinare una carriera dall'altra. A chiudere questa storia, per fortuna, un lieto fine. Protagonisti il magnate Alisher Usmanov, l'uomo più ricco di Russia, che restituirà al biologo James Watson, l'altro protagonista della vicenda, la medaglia del premio Nobel, da lui vinta nel 1962 per la scoperta del DNA. Usmanov l'aveva acquistata all'asta per 4,1 milioni di dollari. Watson, 86 anni, isolato dalla comunità scientifica dopo le posizioni razziste espresse in un'intervista del 2007, si era visto costretto per motivi puramente economici a venderla, cosa mai accaduta prima. Per Usmanov l'acquisto avvenuto al telefono era stato solo un vezzo. Il magnate russo, tra i maggiori azionisti dell'Arsenal, l'aveva acquistata già con l'intenzione di renderla al suo legittimo proprietario, uno dei più grandi biologi nella storia dell'umanità, ha detto Usmanov. Watson, dal canto suo, ha cercato di sfruttare l'occasione anche per riabilitarsi e, visto che oltre al denaro riotterrà anche l'ambita medaglia, ha annunciato che donerà parte del ricavato della vendita in beneficenza. Riabilitarsi da cosa? Dopo la conquista del Nobel, alcune sue dichiarazioni fecero scalpore, frasi pesantissime che non potevano che rovinargli una carriera. Disse che tutte le politiche sociali si basano sul fatto che la nostra intelligenza e quella delle persone di colore sono uguali. Watson sostenne invece che chi deve fare i conti con impiegati neri sa che ciò non è vero. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E questo per quanto riguarda appunto il Nobel. Noi adesso, tra un attimo, andremo a parlare invece delle vicende della CIA, che in parte vi ha già raccontato Gianluca Nicoletti poco fa nel suo Melog con una testimonianza. Vi consigliamo tra l'altro di andare a riascoltare il podcast, perché c'è stata una testimonianza di un ascoltatore che è intervenuto in diretta, un ex componente dei corpi speciali italiani, e che ha raccontato che cosa gli è successo tra il 79 e l'85, una testimonianza interessante. Si parla di prigionieri per quanto riguarda la CIA, di prigionieri morti per ipotermia, alimentati per via rettale, tenuti in piedi per 22 ore, privati del sonno, e poi la famigerata tecnica del waterboarding, che sarebbe stata eseguita su un solo prigioniero addirittura per 183 volte. C'è una spaccatura su questo fronte tra la Casa Bianca e la CIA, e un grande dibattito che si sta aprendo su quanto il diffondere questi dettagli emersi da un rapporto del Senato che ha richiesto un'analisi durata parecchio tempo, 9 anni, su quanto questo infici e colpisca la sicurezza nazionale, cioè il rischio che possa sostanzialmente generare attentati. Saluto Andrea Margelletti, che è presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali, è stato tra l'altro consigliere strategico del ministro della difesa, è stato anche consulente del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti. Non abbiamo Margelletti, che evidentemente è caduta la linea. Si parlava della spaccatura tra la Casa Bianca e la CIA. Un gruppo di ex agenti ed alti funzionari della CIA recentemente hanno creato un sito web per replicare il rapporto della Commissione Intelligence del Senato. Il sito si chiama CIA Saved Lives. Tra l'altro, nell'introduzione si afferma che il rapporto è viziato da errori di fatto e da interpretazioni, ed è completamente in contrasto con la realtà che i leader e i funzionari della CIA hanno vissuto. Siamo in linea con Andrea Margelletti, appunto, la saluto di nuovo, buongiorno, speriamo che la linea tenga. Ci proviamo, buongiorno a voi, naturalmente grazie per l'ospitalità e un saluto ai vostri ascoltatori. Eccoci qua. Allora, che rischi intravede che la diffusione di questo rapporto possa generare, se non un'ondata di attentati, comunque un innalzamento del rischio anche per quanto riguarda il nostro paese, perché nel rapporto è citata anche l'Italia? Ma io direi sinceramente pochi. I veri rischi sono per gli americani, ma non in termini di attacchi all'ambasciata o a contingenti, quanto piuttosto il fatto che mai più funzionari dell'intelligence americana saranno disposti a fare quello che in qualche maniera la Casa Bianca gli chiede, se non in maniera scritta ma verbale, di fare, e non, dopo WikiLeaks e quanto altro, saranno sempre di più le perplessità dei servizi segreti europei a condividere alcune cose con gli americani, visto che i gioielli della regina, i segreti più preziosi, poi vanno a finire ai giornali. Lei teme, Margelletti, quindi, che l'impatto più forte possa essere, al di là appunto del rischio attentati che è stato paventato, proprio nell'organizzazione della sicurezza americana e internazionale? Direi proprio di sì. Sì. Direi proprio di sì. Guardi, a parte episodi di matti non organizzati, cioè chi sente di fronte a questo report la repulsione di compiere un atto, di rispondere a violenza con violenza, ma certamente Al-Qaeda e tutte le altre organizzazioni terroristiche ben sapevano insomma, che Guantanamo o addirittura i siti neri, come vengono chiamati, cioè le prigioni illegali, lì all'interno non venivi trattato come un 5 stelle. Quindi quello che è uscito ieri è qualcosa che di fatto i tecnici in qualche maniera, chi si occupa di queste cose non ne ha totalmente colti di sorpresa. Poi se possiamo andare al dettaglio voyeuristico di una tecnica piuttosto che di un'altra, ma nella sostanza non ha aggiunto molto a quello che si sapeva. Grazie Andrea Margelletti, presidente del CESI, per essere stato con noi, Centro Studi Internazionali, e saluto Enrico Brivio, che attualmente è portavoce italiano della Commissione Europea con delega alla salute e alla sicurezza alimentare, è però un ex caporedattore del Sole 24 Ore che a questi microfoni avete sentito spesso e quindi mi sentirete dargli del tu. Enrico, buongiorno. Buongiorno, colgo l'occasione per salutare anche tutti gli ascoltatori di Radio 24. Ti abbiamo chiamato Enrico. Ti abbiamo chiamato Enrico perché il 13 scatta una nuova disciplina per le etichettature alimentari, appunto, e vorremmo capire da te che cosa troveremo sulle nostre scatolette, sulle etichette degli alimenti che troviamo nel supermercato. Sì, questa nuova legislazione introduce alcuni requisiti obbligatori che finora non lo erano, in particolare viene reso obbligatorio l'indicazione di alcuni componenti che possono provocare allergie, o per esempio tutta una famiglia, sono varie famiglie insomma di alimenti come possono essere soia, no, nocciole, glutine, lattosio, e questo per permettere ai insomma le persone che soffrono di allergie, in alcuni casi che possono anche provocare delle conseguenze rilevanti, di sapere bene se ci possono essere queste componenti nel cibo che comprano. In secondo luogo si inserisce un'informazione sull'origine, cioè per quanto riguarda la carne di maiale, di pecora, di capra e per il pollame, dovrà ora indicare l'informazione d'origine, che già esisteva per la carne bovina, ricordiamo, sull'onda dello scandalo della mucca pazza, dei problemi che ci sono a quei tempi, ma non era ancora stato introdotto questi altri tipi di carne. E però salta l'indicazione dello stabilimento di provenienza, che è una cosa sulla quale una parte delle imprese italiane ha protestato. Ma sì, non si è voluto poi andare a caricare l'industria di eccessivi obblighi, nel senso che comunque sono stati 3 anni di tempo per adeguarsi a questo nuovo regime. Lo scopo è soprattutto di dare delle garanzie al consumatore per quanto riguarda la sua salute. Per quanto riguarda poi il singolo stabilimento, qui si tratta di forme di origine in cui si lascia la discrezionalità del produttore indicarlo o meno, insomma. Grazie ad Enrico Brivio, portavoce italiano della Commissione Europea per la con delega alla salute e alla sicurezza alimentare. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo con le borse, poi nella seconda parte della trasmissione parleremo dello sciopero del 12 per capire cosa ne pensa il garante, e poi ci occuperemo ancora di mafia capitale. A tra un attimo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E passiamo ora allo sciopero generale di venerdì, lo sciopero in arrivo proclamato, come sapete, da CGIL e UIL. Saluto Roberto Alesse, presidente della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero, che è l'autority che si occupa esattamente di queste cose. Ora, nei giorni scorsi c'è stato uno scontro da pagine dei giornali con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi. Non la voglio trascinare in questo. Anche se mi limito a dire che l'autorità di garanzia per gli scioperi non fa politica, non è né di destra né di sinistra, ma adempie in modo scrupoloso al proprio mandato istituzionale. E proprio a proposito di mandato istituzionale, Lupi dice, ha detto, Alesse pensa di intervenire sullo sciopero del 12, su questo fronte avete delle notazioni da fare per quanto riguarda lo sciopero generale? Allora, ecco, appunto, rispondiamo al ministro Lupi perché abbiamo assunto ieri una decisione che è di natura tecnica, la quale peraltro è stata più volte comunicata ai sindacati che hanno proclamato lo sciopero generale, e abbiamo detto loro di escludere dalla manifestazione del 12 l'intero comparto del trasporto ferroviario, e questo perché in precedenza era stato proclamato un altro sciopero sempre di questo settore per le le giornate del 13 e del 14 dicembre e siccome la concentrazione eccessiva di scioperi è vietata dalla legge 146 del 90 e successive modificazioni, è per questo che proprio ieri, anche perché i sindacati hanno ribadito la volontà di non adeguarsi all'indicazione dell'autorità, è per questo che ieri l'autorità ha scritto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendo di avviare la procedura di precettazione. Quindi chiedete la precettazione per la parte ferroviaria dello sciopero? Soltanto con riferimento al comparto ferroviario. Ferroviario e non trasporto pubblico locale, quindi? No. No, non trasporto pubblico locale. Senta Alessia, ma in questo caso resta proclamato lo sciopero delle altre sigle che lo avevano proclamato prima? O avete chiesto la precettazione per tutti a questo punto? No, lo sciopero è legittimo. È legittimo appunto nella parte in cui esclude, lo ripeto, il comparto del trasporto ferroviario. Se i sindacati appunto ovviamente ritengono di dover scioperare anche con riferimento a questo comparto, ovviamente vanno incontro alla violazione di una regola stabilita dalla legge 146. Adesso però la palla passa appunto al Ministero delle Infrastrutture, al quale io ho scritto ai sensi dell'articolo 8 della legge 146, sarà il Ministro a valutare se ci sono le condizioni giuridiche per procedere. Alessia, mi spiega una cosa, visto che siamo in termini di legge, ma come fanno i sindacati a rispondervi di no? Cioè voi gli dite, guardate, lo sciopero delle ferrovie in questo giorno a termini di legge non si può fare. I sindacati motivano dicendo che secondo loro lo sciopero in questo specifico comparto del trasporto ferroviario, secondo loro appunto avrà un impatto minimale sull'utenza, cioè questo sciopero proclamato in questo comparto secondo loro non produrrà eccessivi effetti negativi sui diritti dell'utenza. Questa è la risposta dei sindacati. Questo è un discorso in realtà appunto valido, perché la disamina di quello che accadrà lo si può fare soltanto nella fase appunto ex post, di consumazione dello sciopero. Grazie. Noi dobbiamo ovviamente attenerci al dato formale della legge, che dice che da una concentrazione eccessiva in realtà di scioperi può veramente derivare un pregiudizio serio e concreto ai diritti dell'utenza. Grazie Roberto Alesse, Presidente della Commissione di Garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero, dell'Authority che si occupa di tutto questo. Buona giornata e saluto Walter Verini, capogruppo alla Camera in Commissione Giustizia per il Partito Democratico. Buongiorno. Ex capo della segreteria di Walter Veltroni quando era anche in Campidoglio. Verini, benvenuto. Buongiorno. La prima domanda che le voglio fare è sulla sua conoscenza con uno delle persone arrestate in questa inchiesta su Mafia Capitale, Odeven, col quale lei avrà lavorato di fatto gomito a gomito, no? Perché era il vice capo di gabinetto di Veltroni da sindaco. Che cosa ci dice? Ma dico intanto che Odeven è accusato di gravissimi reati che sarebbero stati compiuti in questi ultimi 4 anni nella sua veste di componente del tavolo nazionale per lo smistamento dei rifugiati, e fu nominato dall'Unione Province, quindi non si parla di reati eventualmente compiuti in quel periodo. Ma è vero che in quel periodo lo chiamavate lo sceriffo? Ecco, per noi, per la giunta Veltroni, Odeven era il braccio operativo del rispetto della legalità. In quegli anni furono abbattuti 500.000 metri cubi di palazzi abusivi, 26.000 cartelloni abusivi, sgomberi di luoghi occupati dalla criminalità organizzata. Queste cose Odeven le faceva anche a rischio, perché erano operazioni delicate, e le faceva insieme ai carabinieri, ai questori, ai prefetti, alla polizia. Lui stava nel comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza e nessuno ha mai avuto il minimo sospetto che non fosse una persona seria. L'altro ieri il braccio destro di Don Ciotti, che è la Gabriella Stramaccioni, si è detta basita per aver visto questo nome, così come l'ex prefetto Achille Serra. Cioè, all'epoca, quando stava con Veltroni, non poteva che lavorare per il rispetto della legalità. Questo è l'Odeven che abbiamo conosciuto noi. Questa è la sua figura. Questo non suggerisce, Verini, molto brevemente, anche eventuali contatti con apparati dello Stato, visto che quelli di Carminati parrebbero conclamati? Non so di che cosa si parla, mentre Carminati è un personaggio noto alle cronache giudiziarie per i suoi trascorsi ai limiti oltre la criminalità, contiguità col terrorismo e così via. Odeven è uno che ha lavorato in Legambiente 9 anni, ha fatto Zingaretti non l'avrebbe nominato dopo aver lavorato in Campidoglio a capo della polizia provinciale se avesse avuto qualche sospetto. Parliamo di due situazioni molto diverse. Molto, molto diverse, anche se appunto i contatti ci sono stati. Una domanda, Verini, sulla situazione del partito a Roma, che lei evidentemente frequenta da molti anni, abbiamo raccontato già da questi microfoni, abbiamo ricordato le parole di Marianna Madia 1 anno e mezzo fa, che disse il partito a Roma, ci sono delle associazioni a delinquere, ma com'è possibile che si debba arrivare a questo per chiamare un commissario, in questo caso Orfini, e fare pulizia, insomma? Ma perché anche nel PD si è innescato un processo di degenerazione della politica. Quando la politica è ridotta a caccia alle preferenze, a caccia ai posizionamenti, alla lotta per il potere, che non viene più considerato come un mezzo per affermare dei valori, degli ideali, ma come un fine, allora c'è il rischio che chi non ha una passione politica autentica, ma usa la politica per il proprio interesse, per la propria carriera, poi alla fine, pur di raggiungere quei risultati, segua anche delle pratiche assolutamente negative. Il correntismo è questo, è stato, e quindi dobbiamo prevenire, bisogna che, per capirci, chi vuole usare il PD, che è nato per cambiare la politica, per i propri interessi, per la propria carriera, trovi le porte chiuse. Quindi prevenire così e dare spazio solo a quelli che pensano che la politica sia una passione generosa per aiutare il paese, la città e gli altri, e non se stessi. Lei ha parlato di correntismo, cioè chi parla di bande. Sì, esatto, si chiamano, le hanno chiamate correnti, ma molto spesso, e non solo. Perché le correnti hanno dignità politica, diciamo le così. Le correnti ideali, sì, quando sono aree politico-culturali, sono il sale della democrazia, del confronto politico, ma non sono così. All'ombra di queste cose spesso si sono celate delle vere e proprie bande che lottavano per il potere, ma non solo a Roma. Cioè, oggi se senti urlare in qualche circolo, non è perché litiga su come fare meglio la legge di stabilità, ma spesso si litiga su chi va a fare l'assessore. Queste cose non hanno niente a che vedere con una politica che sia nutrita da passione ideale. Grazie, Walter Verini, capogruppo alla Camera di Commissione Giustizia per il Partito Democratico. Non abbiamo avuto il tempo di parlare di queste nuove norme sulla corruzione in arrivo, ma devono ancora arrivare, e quindi lo faremo sicuramente. Traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington. Mario Platero, sono nella capitale americana perché devo dire ieri è stata una giornata storica, una giornata importante con la pubblicazione di questo documento contro la CIA da parte del Senato americano e devo dire per la seconda volta in pochi giorni gli Stati Uniti sono avvolti da un dibattito di natura morale. Dieci giorni fa per la violenza e la discriminazione contro i neri, ieri per la violenza eccessiva della CIA nei confronti di terroristi stranieri, un racconto dettagliato in oltre 6.000 pagine rilasciato ieri dal senatore Dianne Feinstein. The release of this 500-page summary cannot remove that stain, but it can and does say to our people and the world that America is big enough to admit when it's wrong and confident enough to learn from its mistakes. Releasing this report is an important step to restore our values and show the world that we are in fact a just and lawful society. Ecco, in un dibattito intenso, appassionato al Senato, la Feinstein dice: posso capire l'impulso della CIA a usare ogni metodo possibile per raccogliere intelligence, rimuovere terroristi dal campo di battaglia, anche per le pressioni dei politici e dell'opinione pubblica. Eppure, ha detto la Feinstein, queste paure, queste pressioni, queste attese per nuovi attacchi non giustificano, temperano o scusano azioni improprie di individui e organizzazioni nel nome della nostra sicurezza nazionale. Ecco, e devo dire, il giorno dopo ci si chiede, se lo chiedevano questa mattina già nei programmi televisivi, è una predica tra virgolette morale o è uno strumento di battaglia politica? Voglio intanto dire subito che non era mai successo che la CIA fosse sotto attacco come lo è stata ieri all'interno del suo paese, in questo rapporto sugli abusi del post 11 settembre. Ci sono tre filoni di accusa principali in questo rapporto. Il primo: sono stati usati più volte metodi di tortura inaccettabili per l'etica americana. Il secondo: la CIA ha mentito al presidente degli Stati Uniti, ha mentito al Congresso durante audizioni, ha negato che certi metodi fossero usati in modo sistematico quando invece lo erano. Il terzo atto d'accusa è forse il più imbarazzante, perché si dice che questo tradimento dei principi etici americani non è servito a nulla, non ha contribuito a difendere l'America dal pericolo di nuovi attacchi, né alla cattura di personaggi di spicco di Al-Qaeda, né soprattutto alla cattura di Osama Bin Laden. Ecco, quest'ultimo riferimento, devo dire, ha prodotto una divisione. Il rapporto è devastante, come vi dicevo, ma come sempre capita in queste situazioni, vi sono innocentisti e colpevolisti nei confronti della CIA. Il riferimento all'inutilità delle torture, per esempio, è confezionato su misura per rispondere a vecchie dichiarazioni del presidente George Bush e del vicepresidente Dick Cheney. Avevano torto o ragione? Ecco, l'innocenza o la colpevolezza naturalmente si estende anche a loro. Sentiamo George W. Bush al momento di commentare quel che capitava anni fa nella CIA. I want to be absolutely clear with our people and the world. The United States does not torture. It's against our laws and it's against our values. I have not authorized it and I will not authorize it. Ecco, il presidente americano ha sempre negato che la CIA usasse metodi inumani o illegali, questa è la sua definizione. Concenni sottolineava che furono anzi gli interrogatori iniziali ad aver portato dopo anni all'identificazione del rifugio dell'uccisione di Osama Bin Laden, ma gli esempi contrari non mancano. Due casi valgono per tutti. Il primo: una prigione in Afghanistan chiamata Salt Pit, pozza di sale. La CIA ha sempre negato che in quella prigione fossero usati metodi come il waterboarding, che questa illusione di annegamento, l'idea che il torturato abbia di essere soffocato dall'acqua, ma in realtà è un soffocamento controllato. Ebbene, foto recuperate durante l'inchiesta mostrano secchi d'acqua, strumenti di tortura tipici del waterboarding proprio in quella prigione. La CIA ha mentito. Oppure c'è il caso di un centro di detenzione segreto in Thailandia. I metodi erano talmente violenti, pensate, si usavano dei metodi invasivi nel retto per infiltrare d'acqua gli intestini dei prigionieri, una cosa orrenda. E molti agenti hanno protestato, hanno chiamato Washington, in un paio di casi chiesero addirittura il trasferimento per sentirsi dire dai superiori che era il loro dovere. Anche in questo caso la CIA diceva: ma in Thailandia no, non succede nulla, rispettiamo i diritti dei prigionieri. Tutto vero, tutto falso? Insomma, il sospetto di politicizzazione di questo Senato che lancia il suo ultimo grido sotto la leadership democratica prima del cambio della guardia a gennaio con la guida repubblicana, devo dire, è molto diffuso qui a Washington, ma la spaccatura più forte è certamente con la CIA. Sentiamo. The US Senate Intel Committee has released its long-awaited report on the CIA's Bush-era interrogation program. Ecco, la CIA ha pubblicato un comunicato durissimo in cui si prende atto che certi errori sono stati commessi, ma allo stesso tempo si sottolinea che la ricostruzione del Senato è solo parziale e certo non rappresenta, dice la CIA, la versione ufficiale dei nostri programmi. Soprattutto dobbiamo mettere in dubbio un rapporto che denuncia l'integrità di un gran numero di agenti della CIA quando afferma nelle conclusioni che le valutazioni d'insieme dell'agenzia erano volontariamente falsate in uno sforzo calcolato di manipolare. Ecco, parole durissime di risposta da parte della CIA, spaccature anche all'interno dell'amministrazione. Barack Obama appoggia questo documento, il segretario di Stato John Kerry ha preso un minimo di distanze, ha avvertito che la pubblicazione di questo rapporto potrebbe aumentare il rischio di attacchi terroristici e di propaganda anti-americana. Addirittura Kerry ha chiamato la Feinstein per esprimerle le sue preoccupazioni sul rapporto. Leader repubblicani John Boehner o il prossimo leader del Senato Mitch McConnell dicono che si è tradita un'agenzia che sta tutelando e ha tutelato sempre l'interesse dell'America e degli americani grazie a professionisti dedicati. Ecco, in mezzo a questa polemica è capitato ieri, per un battesimo del fuoco, il caso di dirlo, il nostro ministro degli esteri Paolo Gentiloni, che si è incontrato con John Kerry. La reazione è la reazione di fronte a fatti e a metodi inaccettabili per una democrazia, che contraddicono i valori della grande democrazia americana e che per fortuna il presidente Obama per primo alcuni anni fa ha archiviato. Quindi si tratta di un capitolo gravissimo, ma per fortuna di un capitolo chiuso. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, si guarda indietro e si guarda in avanti, l'auspicio è sempre quello del miglioramento, e dunque immaginando un mondo sempre bello come vorrebbe la Feinstein, che purtroppo forse non avremo mai, beh, la canzone più adatta nell'auspicio che le cose davvero possano cambiare e Imagine di John Lennon. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world. Da Washington è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto per Effetto Giorno, grazie a Paolo Corleoni in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Effetto Giorno @radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. La trasmissione torna domani alle 13, noi ci risentiamo tra un attimo con GR24. Airevo di G-Group, soluzioni mirate per costruire il presente. Info su ggroup.it. Vi ha presentato Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti.